Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La valorizzazione della filiera agroalimentare italiana è un esercizio, lo si sa, insomma, di equilibrio tra conservazione della tradizione e capacità di innovare. Se poi pensiamo alle radici di questa ricchezza, è evidente che affonda anche nella grande varietà di prodotti agricoli e razze ed allevamento diffusa nel paese. Ma questo patrimonio, che si misura in termini di biodiversità della produzione agricola, è minacciato da varie parti, parassiti alieni contro cui le specie autoctone non sono preparate, cambiamenti climatici, per non parlare della costante pressione della concorrenza che spinge in molti casi, insomma, ad allinearsi tutti sulle specie banalmente più produttive. Il settore vitivinicolo è senz'altro tra i settori colpiti da questo impoverimento del biota e tuttavia, vista anche l'importanza del segmento economico, c'è chi sta cercando di combatterlo. Ne parliamo con Stefano Soligo di Veneto Agricoltura, l'azienda regionale per lo sviluppo del settore forestale e agroalimentare. Buonasera Soligo. Buonasera, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta Soligo, partiamo proprio dal Veneto. Come si è verificata questa problematica nel settore vitivinicolo veneto? C'è un evento proprio? Possiamo dire che tutto nasce alla fine del 1800, quando sono arrivate in Italia le grandi malattie dal nuovo mondo. Le specie aliene, che ancora ogni tanto ne sbarca qualcuna. No, oggi, no, che sono una delle problematiche, certo, ancora delle più grandi. Certo. Oltre all'arrivo delle famose, che sono ancora adesso un grosso problema, come la peronospora, l'oidio, per fare un esempio, è arrivato a un certo momento un afide chiamato filossera della vite. Questo faceva fuori le viti locali, stringi. Ecco, non ha praticamente impedito il vecchio tipo di moltiplicazione della vite, costringendo a quello che noi conosciamo adesso. Questo ha portato già a un impoverimento della ricchissima varietà che c'erano nel territorio veneto, ma anche italiano ovviamente, prima dell'avvento di questa. Il problema è che questo parassita distrugge le radici sostanzialmente delle viti autoctone, per cui si è passato a fare un largo uso dell'innesto, detto, diciamo, in termini non gergali. Sì, se ho capito bene, e lì c'è stato un primo impoverimento. Esattamente, la vite così da sola non riesce a resistere a questo parassita, per cui si ricorre a un piede che è di un altro genere di vite, certo, cioè viti che noi chiamiamo americane. Ecco, e qui c'è stato il problema di origine, qui si è persa tantissima della biodiversità di questo settore. Quali sono i rischi quando si perde questa biodiversità e che cosa state facendo voi per contrastare questo problema? Ovviamente la perdita della biodiversità può avere un interesse immediato, perché solitamente le più promettenti, certo, le più che il mercato appetisce, però sicuramente in caso che ci siano delle variazioni o nuovi patogeni, un nuovo parassita che arriva ancora, roba del genere, lì ti ammazza tutto, lei dice, e questo è il problema. Non dico che ammazza tutto, ma amplia le problematiche, certo, naturalmente, di poterne far fronte. E quindi voi che cosa state facendo per scongiurare questo rischio? Allora, noi facciamo parte di un ben più ampio, ovviamente, a livello italiano, che dopo si percuote a livello regionale, di attività di recupero di tutti questi vecchi, chiamiamoli vitigni, antichi vitigni, che venivano coltivati prima dell'avvento di questo parassita nei vari territori. Quindi si va a ricercare con segnalazioni di, potrei quasi chiamarli, agricoltori custodi in un, sì, certo senso, che hanno mantenuto comunque queste varietà e si recuperano e intanto si mettono su dei campi che vengono chiamati campi catalogo, campi collezione. Su questi campi a un certo punto si fanno delle attività di vario tipo. Tra cui anche quella che si fa da qualche migliaio di anni, cioè continuare a fare selezione per migliorare le varietà, no? Più che selezione nel senso vero e proprio, si identificano alcune caratteristiche, anche con metodi modernissimi, molecolari, certo, altre cose del genere, e quelle che possono essere tal quali promettenti per il mercato vengono poi mandate nel circuito, diciamo, produttivo. Quelli che invece al momento non mostrano gli interessi vengono conservati per due motivi. Uno generale, naturalmente, di carattere anche scientifico, diciamo così, di carattere sia anche morale, chiamiamolo, certo. Il mantenimento della massima biodiversità possibile di una specie, e uno anche molto più scientifico, come una specie di riserva di geni che possono venire utili per l'introduzione di geni di resistenza. Ecco, questo per dire che comunque questa attività millenaria di selezione, i pomodori una volta erano grandi come le bacche oggi di Ribes, per capirsi, insomma, questa attività di selezione continua ancora oggi e può arricchirsi, no? Col recupero anche di specie e di varietà che verrebbero perse. Va bene, grazie a Stefano Soligo. Grazie a lei. È tutto anche per questa sera, appuntamento a lunedì.